Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai lo sapete, a noi piace parlare di sport, evidenziare gli aspetti epici, umani, eroici che ci sono spesso nello sport, nel calcio e anche non solo nel calcio. E noi andiamo sempre a cercare le storie che riguardano delle persone particolari che sono diventate magari dei simboli per un determinato sport. Beh, in questo caso non è che possiamo proprio parlare di uno sport vero e proprio, perché parliamo di wrestling, che si basa sicuramente sulla lotta fisica, ma deve gran parte del suo successo a tutto lo spettacolo che ruota attorno, con delle storie di amicizie, di rivalità sapientemente orchestrate da degli sceneggiatori molto americani e molto bravi. Gli atleti che si cimentano sul ring sono amati, odiati da un pubblico spinto a farlo, pubblico di ogni età, spesso giovane, spesso bambini. Oggi la nostra storia riguarda proprio un campione di wrestling e uno che è anche diventato un simbolo per un intero popolo, quello ispanico. Al grido di viva la razza entra in scena Eddie Guerrero. Dovete alzarli subito contro di noi. D'accordo. Continuate a picchiare e non mollate mai. Boom, boom, boom, boom, boom. Noi usciamo, ci mettiamo sulle corde. Voi ci prendete e ci buttate in mezzo a lì. Ok. Allora ci alziamo, doppio calcio volante e andiamo fuori. Va bene, ci rilavoriamo proprio di fuori. Sì, okay. Ci rilavoriamo piano piano, vecchia scuola con vecchia calma. Scuola. Non accanirti sulle gambe. Bello, lo fanno tutti quanti. Sì, ma che c'è di male? Va sul collo. No, no, noi lavoriamo il collo. Non siamo abituati. Voi fate il collo? Lavoriamo però il collo. Voi fate le gambe. Che fate, le gambe o il collo? Tu puoi contrattaccare subito dopo. Mi butto contro le corde, super calcio volante, ram jam e andiamo a farci una birra, eh? Mi sembra perfetto. Ok, non mollare, hai molto talento. Va bene, va bene. Va bene. Grazie. È un piacere. Questa è una clip tratta dal film The Wrestler, interpretato da un meravigliosamente decadente Mickey Rourke. È un film che racconta il mondo del wrestling dall'interno, dall'interno degli spogliatoi, quando gli atleti si accordano prima sulle mosse da fare, sui colpi proibiti da darsi, su come comportarsi, perché poi uno fa il buono, l'altro il cattivo, una commedia delle parti in cui ognuno interpreta un ruolo preciso e in fondo è un ruolo determinato proprio dalle aspettative del pubblico. E nel wrestling ogni lottatore può essere quello che chiamano un face, cioè un personaggio buono, amato dal pubblico, oppure può essere un heel, cioè il cattivo della situazione. Il pubblico si divide e tutto il combattimento sul ring gioca sullo sviluppo di una storia dove magari il buono diventa cattivo in corsa, una storia che può anche protrarsi per diversi incontri, diventa una telenovela. Il wrestling ha radici antiche, una volta si chiamava catch, era una forma di lotta libera con qualche variante, diciamo la lotta libera senza esclusione di colpi. Perfino Primo Carnera negli ultimi anni della sua carriera, per guadagnare qualche soldo, recuperare qualche soldo di quelli che gli avevano rubato gli impresari prima, faceva catch, era il crepuscolo degli dèi, lui si esibiva con le penne da indiano, insomma una situazione anche un po' triste. Poi invece nel corso degli anni il catch, cioè oggi il wrestling, è diventato uno spettacolo, una variabile che ha attratto una grande quantità di soldi, è un circo televisivo e lo vediamo anche spesso nelle nostre televisioni, addirittura ci sono delle reti tematiche. Lo spettacolo prende il sopravvento, c'è il merchandising che coinvolge tutte le star. Enorme. Ancora testate su tutta la fronte, su tutta la parte anche occipitale in questo momento di Hogan. Guardate con quanto sadismo ha infilato un dito nell'occhio, sta tentando di strapparglielo, di cavarglielo dall'orbita. Veramente sadico il nostro Abdullah the Butcher. Il nostro Tony si è eccitato. È una cosa, no, assolutamente, anzi mi dispiace. Guardate sempre quando Hogan gli incontri degenerano fino a questo momento. Hogan comunque è un atleta, guardate, all'attimo di follia si legge nei suoi occhi, sta tentando di reagire, è ancora testate in pieno volto. Eh sì, vedete, tutti partecipano a questo finto gioco scintillante e i telecronisti che fingono di spaventarsi e di emozionarsi e raccontano cose che anche loro sanno benissimo che sono artefatte. Intanto uno sport del genere ha bisogno dei suoi eroi, Hulk Hogan, Andre the Giant, The Undertaker, quello che ti porta sottoterra, John Cena, questi sono solo alcuni dei pittoreschi nomi dei campioni del wrestling, sono personaggi che diventano anche stelle del cinema, muovono una fabbrica di soldi, una macchina di soldi che vende ogni tipo di gadget. Ci sono canzoni che hanno una valenza sociale, diventano il simbolo di una minoranza che cerca un punto di riferimento per fare sentire la sua voce. È proprio questo quello che accade a Eduardo Gori Guerrero Yanes, classe 1967, nato a El Paso, che è un posto particolarissimo al confine tra il Texas e il Messico. Eddie Guerrero è figlio d'arte, suo padre si chiama Gori Guerrero, è un wrestler molto famoso in Messico, e anche i tre fratelli di sua madre erano wrestler, quindi inevitabile che Eddie cominci a respirare un'aria di famiglia, un'aria che lo porterà a intraprendere la stessa carriera. La sua è una famiglia numerosa, tre suoi fratelli sono wrestler professionisti. Eddie inizia a salire sul ring combattendo proprio contro di loro tra un match e l'altro negli show organizzati dal padre. Mio padre ha passato 20 anni a organizzare incontri al passo. Il Coliseum era la mia seconda casa. Ogni lunedì preparavo le scarpe e i costumi per mio padre e i miei fratelli. Sono cresciuto in uno spogliatoio ed ero sempre con lui. Insomma, quello è un ambiente che per lui è assolutamente familiare. Da bambino, all'interno del palazzetto dove si svolgono gli incontri, lui si orienta tra gli uffici, gli spogliatoi, il bar. Tutti lo conoscono, tutti lo coccolano, gli fanno provare le cinture dei campioni, gli insegnano le mosse, i movimenti per combattere, insomma un po' alla volta. Frequentando una scuola di vita fatta di esperienza, entra a contatto con i più forti wrestlers messicani. Cresce in lui questa passione che lo porterà inevitabilmente a scegliere il wrestling come la strada della sua vita. È stato mio padre ad allenarmi per primo. All'inizio non è stato facile perché io mi allenavo e mio padre mi guardava e scuoteva la testa. Allora io mi chiedevo che cosa stessi facendo di sbagliato e mi allenavo ancora più duramente. Ma lui scuoteva la testa, non era mai contento. Ma io continuavo ad allenarmi perché questo era esattamente ciò che volevo fare. This is what I really want to do now. Queste finte perplessità del padre in realtà non sono che un modo per stimolarlo, sono già un metodo di allenamento. E Eddie così si impegna sempre di più, prepara il suo fisico agli incontri di lotta, e all'inizio degli anni 90 ha delle prime soddisfazioni in campo sportivo, i primi titoli nella federazione messicana dove combatte accanto ai suoi fratelli, e contemporaneamente va in Giappone, che è un altro paese dove il wrestling ha una tradizione molto forte. Ricordate quando nelle televisioni locali venivano trasmessi i leggendari incontri di Antonio Inoki con il commento di Tony Fusaro, periodo 92-94, Eddie Guerrero è lì e combatte contemporaneamente in Messico e in Giappone, dove si fa notare per la sua bravura ma anche per la simpatia con cui riesce a fare presa sul pubblico. Il wrestler deve essere soprattutto uno showman, e lo spettacolo conta tanto quanto l'attività fisica. Insomma, ha delle caratteristiche che fanno sì che venga chiamato a giocare a alti livelli nelle leghe professionistiche americane. Il falco e il gabbiano. Eddie Guerrero ha origini messicane e, come accade spesso nel mondo latino, ha un senso della famiglia molto alto. Così nel 90, quando conosce Vicky, questa ragazza diventa in pochi mesi sua moglie. Peraltro è un matrimonio che viene organizzato in fretta perché il padre di Eddie Guerrero, Gori, è molto malato e loro cercano di sposarsi con il padre vivente, cosa che non sarà possibile. My dad passed on a Tuesday. Mio padre morì di martedì. Qualche giorno prima mi disse: qualunque cosa accada, va avanti con la tua vita e non rinunciare a nulla. Lo seppellimmo di venerdì e il giorno dopo ci sposammo. Mi sentivo colpevole, ma sapevo di fare esattamente quel che avrebbe voluto che io facessi. I also felt that I was completing his wishes and doing what he asked me to do. E per una vita che se ne va, c'è una vita che nasce. Vicky è incinta. Qualche mese dopo nasce Shawl, la primogenita di Eddie, una donna. E uno pensa ci saranno rimasti male, volevano un maschio per continuare la stirpe di wrestler. Niente problema, perché Shawl oggi è una wrestler professionista e continua la tradizione di famiglia. Abbiamo detto che negli anni 90 il mondo del wrestling è un po' diverso da quello che vediamo oggi. Lui è messicano, combatte in Messico, pure in Giappone, perché la lega professionistica americana è off-limit, frequentata da atleti americani puro sangue. Tra tutti, per esempio, c'è Hulk Hogan, che in realtà non è puro sangue perché è figlio di emigranti italiani, però ha un aspetto super americano, un po' vichingo, il suo aspetto è biondo, è il tipico eroe americano. Poi a un certo punto c'è una svolta, perché i promoter capiscono che per aumentare il livello di spettacolo bisogna creare anche delle contrapposizioni socio-razziali, quindi vanno a cercare un antagonista a Hulk Hogan, un antagonista che possa arrivare da una minoranza, per esempio la minoranza latina, più precisamente messicana. In Giappone avevo conosciuto altri due lottatori, Chris Benoit e Dean Malenko. Insieme eravamo diventati famosi come Los Tres Amigos. C'era un'alchimia tra di noi, ci capivamo al volo e lo spettacolo era assicurato. A lot of doors opened up from that. E così nel 1996 Eddie Guerrero vince per la prima volta il titolo mondiale della World Championship Wrestling, che la federazione americana toglie la posizione di primato a Hulk Hogan. Adesso l'idolo dei tifosi è lui, però cioè, bisogna anche specificare che la carriera nel wrestling non è come quella del pugilato, dove il pugile fa un percorso preciso, match dopo match acquisisce delle credenziali per poter arrivare a giocarsi il titolo, perché nel wrestling comanda lo spettacolo, sono gli impresari che organizzano gli incontri, creano gruppi di fan che sostengono questo o quel partecipante. Così accade che Eddie Guerrero partecipi a un incontro in cui, non so, 60 atleti combattono l'uno contro l'altro, eliminandosi a vicenda gradualmente per poi arrivare allo scontro finale. Quindi insomma sono delle formule dove le leggi sono dettate più dallo spettacolo che dalla logica sportiva. Poi magari l'incontro finale è pianificato dall'inizio e tutti i combattimenti delle eliminazioni sono solo il frutto di una regia di abili sceneggiatori. Il wrestling insomma è la versione moderna dell'antico spettacolo dei gladiatori, tutto però è pianificato per portare lo spettacolo a livelli altissimi, estremi, senza che nessuno si faccia male veramente. Il periodo che va dal 1995 al 99 è quello che porta alla consacrazione di Eddie Guerrero. Lui divide il ring e la fama con un altro grande wrestler di origini messicane, Rey Mysterio. Un loro incontro nel 96 viene considerato a tutt'oggi come uno dei più esaltanti e spettacolari incontri della storia del wrestling, con Eddie Guerrero che sbalordisce i suoi fan con acrobazie, tuffi spettacolari, giravolte. Insomma, dovete cercare i filmati su YouTube per capire, perché insomma anche se è tutto finto, poi è vero che bisogna saperle fare determinate cose per essere atletici e spettacolari. Insomma, Eddie Guerrero diventa il simbolo di un popolo, del popolo messicano, soprattutto dei messicani arrivati negli Stati Uniti, e lui è l'eroe capace di farsi amare da tutti. Anche gli americani puri cominciano a amare. Il suo motto è Viva la razza, che sottolinea che la sua famiglia è sempre stata legata al mondo del wrestling. La sua è una dinastia e lui è orgoglioso di tenere alto il nome dei Guerrero ai massimi livelli. A questo punto della mia carriera tutto stava andando per il meglio. Ero ricco, famoso, potevo acquistare belle auto, barche, tutto quello che desideravo. Ma quando hai tutto ti ritrovi a cercare qualcosa di nuovo e finisci col perderti per strada. Iniziai a bere, ad assumere pillole. Lo sai come vanno a finire certe cose. Eh sì, lo abbiamo raccontato spesso di come dei colpi d'ala positivi ti fanno salire in alto finché non incontri un vuoto d'aria e precipiti verso il basso. E la storia è piena di persone che una volta raggiunto il successo faticano a gestirlo. Lui è ricco e famoso, comincia a perdere di vista i grandi insegnamenti di suo padre. Nella sua vita cominciano a entrare l'alcol, la droga. Quando si racconta la storia di un wrestler, in realtà non si capisce veramente fino a che punto le cose siano reali o quando sono frutto delle sceneggiature dei manager, e quindi accade un po' di tutto nella vita di Eddie Guerrero: tradimenti e riconciliazioni con la moglie, faide familiari con il nipote che si chiama Chavo, incidenti automobilistici, insomma il wrestling è tutto questo, è una eterna telenovela in cui i dissidi, i tradimenti sono all'ordine del giorno, tutto si regola sul ring con il fine di divertire il pubblico, i panni sporchi si lavano sul ring. Però i problemi con alcol e droga non sono una finzione e rischiano di fare precipitare Eddie Guerrero in un tunnel da cui non esiste una via d'uscita. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Eddie Guerrero, il wrestler di origine messicana, ricordato come uno dei più amati personaggi di questo carrozzone mediatico, di questo incrocio tra sport, spettacolo, finzione, leggenda, ma soprattutto merchandising. Nella seconda metà degli anni 90 Eddie diventa l'idolo della comunità messicana degli Stati Uniti e l'idolo comunque per molti americani, perché viene sostenuto da tutto il suo pubblico anche negli incontri più spettacolari. Naturalmente il successo, soprattutto quando è un successo così particolare, provoca a volte un senso di invincibilità che rischia di scontrarsi con la realtà, e nel 1998 Eddie ha un primo impatto molto duro con il suo destino. Si mette alla guida di una delle sue potenti auto, anche perché le auto sono una delle caratteristiche più importanti della sua vita, che è essa stessa una coreografia, e lui addirittura fa il suo ingresso sul ring spesso a bordo di queste auto. Insomma, auto dai colori sgargianti, dagli interni di velluto colorato, dagli impianti stereo da migliaia di watt. La leggenda e la propria vita in quei casi vanno a sovrapporsi, e auto insomma addirittura con le sospensioni che fanno rimbalzare la macchina, cose di questo genere. Beh, la sera del 31 dicembre 1998 una di queste auto, guidata da lui, da Eddie Guerrero, rimbalza sulla strada, probabilmente anche a causa dell'alcol che comincia a rallentare i riflessi del suo autista. In quel periodo stavo prendendo delle pillole antidolorifiche e altra roba per dormire. Queste pillole non andavano d'accordo con l'alcol. Sapevo quel che stavo facendo, ma non so perché lo stessi facendo. Eddie perde il controllo dell'auto, si ribalta più volte, il corpo viene sbalzato fuori per 30 metri. I soccorritori lo danno per morto, ha fratture in tutto il corpo. Beh, riesce a sopravvivere. La sua forza di volontà lo riporta sul ring nel giro di 6 mesi e il pubblico dimostra di non essersi dimenticato di lui. Mamacita, Juan son latino y... E così tutto ricomincia, il business del wrestling va avanti nell'avventurosa telenovela che scorre parallela alla vita di Eddie Guerrero. C'è anche posto per una storia d'amore che naturalmente è finta. Lei si chiama China, è una wrestler talmente forte da riuscire a competere con gli uomini, e nasce questo flirt, ovviamente tutto fatto a uso e consumo dello spettacolo. È un sodalizio che viene gestito interamente dagli organizzatori degli incontri. Prima di ogni incontro viene raccontato un piccolo pezzo di questo feuilleton, di questa storia d'amore, dove tutto è finto, tutto è costruito a dovere. Pochi mesi dopo va in scena un litigio a seguito di una doccia galeotta fatta da Eddie in compagnia di due bellissime ragazze. E China scopre l'intrigo e rompe l'alleanza sportiva con Eddie Guerrero. Cioè la gente va a vedere questo spettacolo e vede negli schermi quello che accade negli spogliatoi e crede che tutto sia vero, o comunque si convince, vuole crederci. Tutto parte dello show. La stessa moglie di Eddie, Vicky, quella vera, è la prima a scherzare su queste storie. Tutto è finzione, non sono le altre donne la cosa di cui deve avere paura Vicky, perché un matrimonio può essere messo in pericolo da altri motivi, soprattutto da altri vizi ben più seri. Perché nel mondo finto e costruito del wrestling ci si racconta tutto, tutto viene messo in mostra, tutto diventa storia, tutto tranne qualcosa che va tenuta ben nascosta, è la dipendenza di Eddie Guerrero dalla droga e dall'alcol. Così nel 2001 lui viene licenziato dalla federazione che organizza gli incontri perché ancora una volta viene arrestato dalla polizia per aver causato un incidente ubriaco alla guida. E gli eroi del wrestling devono essere comunque dei bambinoni positivi, non ci si può ubriacare guidando, e l'alcol ormai è diventato il compagno di viaggio fisso di Eddie, che vive in un mondo nel quale peraltro non ci sono per esempio controlli antidoping. Questo sta a significare che i danni provocati dall'alcol vengono accentuati dalle sostanze che normalmente circolano negli spogliatoi, come minimo antidolorifici, e poi altre sostanze dopanti, come viene raccontato per esempio anche nel film The Wrestler. Un Anadrol 2,50, una di qui poi 75, due boccette di Trend, $75 l'una, 150, un'insulina $100, 4 Sustanon, 3 fiale a scatola $30, la scatola 120, un Bianobol $100, per le tette da Troia o la Rimidex $200, totale 9,95. So che ne hai solo 400, dammi quelli e poi mi darai il resto. Ormone per la crescita? Ce l'ho cinese o il Zolastin? No, non voglio quella robaccia cinese. Bravo, Ren. Sei il più forte. Ok. Così la moglie Vicky se ne va perché non stanno vivendo una situazione familiare piacevole. E, insomma, è il momento per Eddie Guerrero di cominciare a combattere veramente, a combattere questi colpi d'ala negativi che fanno più male dei pugni concertati a tavolino. Deve riprendere in mano la sua vita, deve andare in qualche posto dove lui possa disintossicarsi. Quando perdi tutto, quando perdi la persona che ami, quando ti ritrovi a toccare il fondo, allora devi rialzarti e lo devi fare per le uniche persone che ti sono rimaste da amare, i tuoi figli. Lui è fuori dalle competizioni di Serie A e deve ricominciare da capo, deve ricostruirsi, deve disintossicarsi dall'alcol, dalla droga, e deve recuperare dei valori che probabilmente ha perso nella sua vita ormai piena di lusso, di notorietà. Comincia a gareggiare di nuovo nei circuiti indipendenti e si rimette a posto, tanto che nel 2002 la Lega ufficiale lo richiama, lo rivogliono per giocare con i grandi professionisti. La moglie torna e tutto sembra una favola avviata a un americanissimo lieto fine. Le porte della famiglia che gli erano state chiuse si riaprono per lui, la vita sembra di nuovo sorridere al guerriero. Così nel 2002 si torna a volare in alto, è l'anno della rinascita per Eddie Guerrero, torna in forma, si presenta sul ring insieme al nipote Chavo, e formano una squadra, Los Guerreros, e dopo Viva la razza, ecco un nuovo motto: We lie, we cheat, we steal, mentiamo, inganniamo, rubiamo. Così in questo modo, da furfante ma simpatico, Eddie Guerrero riconquista le grandi platee, appare in coppia con il nipote come un messicano irriverente che cerca di fregarti ma lo fa con simpatia. Insomma, in tutta la sua carriera lui non riesce mai a fare la parte del cattivo perché è amato da tutti, soprattutto dai bambini, perché i valori che insegna sul ring non sono negativi, tutto è solo show. Tutto sembra procedere per il meglio, anche nel mondo del wrestling le cose cambiano, nasce la WrestleMania che porta questo sport, se così possiamo definirlo, oltre oceano. Eddie Guerrero è una stella, è forse il più amato, ma il destino viene ancora una volta a chiedere il conto e questa volta sarà l'ultima. Guerrero is one of the WWE's biggest stars. La WWE è profondamente rattristata dalla notizia del decesso di Eddie Guerrero. È stato trovato morto questa mattina nella sua stanza d'albergo a Minneapolis. Eddie lascia la moglie Vicky e le figlie Shaul, 14 anni, Sherilyn, 9, e Kylie Marie, 3 anni. La mattina del 13 novembre 2005 all'hotel Merio di Minneapolis, Eddie Guerrero non risponde alla sveglia mattutina per la colazione. Lui è lì con altri atleti in quell'hotel, deve disputare una serie di incontri che sono previsti per la serata. Il nipote Chavo è il primo a entrare nella camera dove Eddie Guerrero viene trovato senza vita. L'autopsia toglierà ogni dubbio sulla causa del decesso: infarto però il corpo di Eddie arriva sicuramente a questo estremo appuntamento, l'appuntamento con la morte, debilitato da anni e anni di alcol, medicine, cure ormonali non lecite. La morte di Eddie Guerrero non è il primo né l'ultimo di una serie di decessi illustri di altri suoi compagni d'avventura. Le cause sono sempre legate al cuore che non regge la fatica di una vita trascorsa a combattere. Però la realtà è ben diversa, perché in tutti appare chiaro che il mondo del wrestling ha leggi molto spietate. È un mondo in cui lo show business comanda le vite degli atleti, che vengono ossessionati dal successo, portano all'estremo il loro corpo, spesso con l'aiuto di sostanze illecite e dannose per il loro fisico. Ma tutto è spettacolo. Proprio nel giorno della sua morte c'era un'esibizione che era prevista a Minneapolis, e questa esibizione diventa uno show alla memoria di Eddie Guerrero, con una cerimonia strappalacrime in cui amici e colleghi di Eddie ricordano l'amico sul ring. Le lacrime rigano il volto di energumeni di 2 metri di altezza. Il mondo del wrestling mostra tutta la sua falsità yankee anche nei momenti più tristi, e l'ingenuo pubblico americano si commuove, tutti piangono assieme, poi iniziano gli incontri e tutto viene dimenticato. Nei mesi successivi escono alcune notizie ovviamente false, che in qualche modo mirano a tenere ancora in vita quel che resta del mito di Eddie Guerrero. Si dice che non è morto, che è stato visto a El Paso, qualcosa per continuare magari a lucrare le ultime briciole sul merchandising. La notizia però alla fine non fa molta presa. Eddie Guerrero viene presto dimenticato e sostituito da nuovi eroi del ring. Colpi d'ala e discese a precipizio, cavalcando la finzione, cavalcando il mondo artefatto del wrestling, in una storia molto significativa che assomiglia a tante altre storie ed è il quadro perfetto di quello scenario, come dire, un po' cialtrone, un po' ingenuo. Noi vi aspettiamo. Vi aspettiamo con altre storie, segnalateci il falco e il gabbiano @radio24.it o al sito di Radio 24 volete che noi si parli di qualcosa che vi interessa, e poi venite a cercarmi nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.